chiacchiere di zinzio. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere di zinzio. Solo chiacchiere di zinzio. Sei solo chiacchiere di zinzio. E 44 minuti primi. Palinsesto serale completamente libero, eppure siamo riusciti ad arrivare a iniziare in ritardo anche questa notte, e non per questo dovevamo accelerare al massimo la sigla iniziale di Disconnection Notice, anche perché invece è calma. Calma, perché questo è il 3 agosto, questo è il forno di Radio Onda Rossa. Tutti sventaglioni aperti, accesi a cercare di mandare aria. A soffiare sulle strumentazioni accese e anche su noi stessi che... Comunque. Come si dice, sprizziamo da tutti i pori, non la classica allegria, ma semplicemente del banalissimo sudore. Questa è la Roma rovente, questa è Radio Onda Rossa. E questo è un pezzo di storia di questa città. Un pezzo del protagonismo politico, dell'informazione politica soprattutto, riguardo alle vicende che dagli anni 70 fino ad oggi hanno accompagnato i movimenti che hanno scosso le fondamenta di questa città, ma non solo, perché Radio Onda Rossa, per quanto piccola e locale, si è fatta comunque partecipe di diffondere informazione e soprattutto comunicazione fra compagni e compagne. Dai lontani anni 70 fino ad arrivare ai nostri giorni sarebbe dispendioso riepilogare tutte le tappe che hanno portato Radio Onda Rossa ad essere vicini e vicine, tener conto, a dare corrispondenza di tantissimi eventi che sono successi dalle bombe sotto la radio stessa, per passare poi a tutti gli anni 80. Alle lotte nei posti di lavoro, nella città, antinucleari, per poi arrivare agli anni 90 con tutti i movimenti che hanno scosso quel periodo, un nuovo protagonismo studentesco dei centri sociali. E ancora prima le manifestazioni per la pace e contro il nucleare, insomma, veramente una storia che ci porta poi per Genova fino alle grandi manifestazioni della crisi. Dal 2007 fino al 2011-12 e poi fino ai tempi più recenti, insomma. Una radio attenta e sempre puntuale che ha cercato non solo di essere dentro alle manifestazioni nel senso giornalistico del termine, insomma, cioè chi fa il reporter, no, noi facevamo proprio e facciamo proprio i militanti dei movimenti, e questa internità rende la comunicazione, come si dice, diretta, senza mediazioni. c'è una campagna che è la 30 per 1000. Con questo per dire che queste caratteristiche di Radio Onda Rossa ci sono perché abbiamo scelto forme di finanziamento che sono sempre quelle pubbliche, di tutte e tutti voi, senza mai fare un minuto di pubblicità a chi che sia, senza ricevere soldi da partiti o partitini. Quindi c'è una campagna, dicevamo, la 30 per 1000, andate sul banner della radio www.ondarossa.info. Ci trovate tutte le modalità per aderire alla campagna di radioabbonamento. Oppure magari, se ci riuscite, la mattina ancora quando c'è qualcuno, potete passare qui direttamente a Via dei Volsci 56. www.ondarossa.info il sito, a Via dei Volsci 56 al primo piano. E se no, altrimenti a settembre. Ma mi raccomando, appunto, non lasciate da sola anche finanziariamente la radio ad agosto, perché è il periodo che tutti partono, ma le spese rimangono. Mette una minuto, devo anche che turbin. L'aigo de Garuno, vai lanzar chi, i fiamme la memoria, e smavos per chi lo vis. L'aigo de Garuno, vai lanzar chi, i fiamme la memoria, e smavos per chi lo vis. 22:54 minuti primi, gli 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Radio Onda Rossa 25 o'clock. E siccome negli ultimi anni, così negli ultimi una vita, platiriamo da questi microfoni, magari non allargandoci troppo, magari tenendoci nel nostro spazietto. Però le abbiamo fatte un po' tutte, le abbiamo provate un po' tutte, tutte no, Sì, perché comunque non mettiamo limite alla fantasia, alla voglia, al desiderio come quello di questa notte torrida di venire comunque a trasmettere qui. Anzi, siccome dal momento che io piemonteso ciò desplego i sicuri anche San Lorenzo è una San Lorenzo di agosto. E i palinsesti della radio sono molto estivi. Noi ci contiamo a saperlo. Vediamo un po' di coordinate della radio e poi vi chiediamo una cosa, dai. Dicevamo il sito www.ondarossa.info, poi l'indirizzo della radio, vedete, Voci 56 00185, Roma, per chi volesse mandarci delle missive come fanno ad esempio tanti detenuti e detenute. Magari è poco pratico con le robe elettroniche. Chi c'ha difficoltà pure a accendere un computer? E questo non dipende solo dall'età, ma alle volte anche dalla nausea. Nell'avere in mano sempre quell'acceggio o di dover stare con la tastiera lì davanti. E invece per chi ama la tastiera, ondarossa@ondarossa.info, la mail della redazione per mandare le vostre comunicazioni alla radio, 25 o'clock 25 scritta a numero @ondarossa.info. Vesto da festo per le smesse di un cutè. Per mandare le vostre comunicazioni al sottoscritto, anche se appunto bis e lucia te perna danzo buona fremo. La mail la guardiamo un po' di meno, abbiate pazienza. Ne ma sigaro che si deve bandì. Se non siamo lì pronti come un tempo online. Sul ferì. I social ancora di meno. Tende ghero per nuse. Su cui pubblichiamo peraltro quelli che sono i nostri podcast, le nostre produzioni, autoproduzioni audio della radio. E camara che troverete anche sul sito. E poi, per ultimo, ma non per importanza, 0649175 e lo storico recapito della radio. E siccome sappiamo che tra l'altro, anche se siete in vacanza, volendo potete pure ascoltare la radio in streaming dal sito, da tanti posti che rilanciano il segnale di Radio Onda Rossa, c'hanno i link col nostro streaming. Dicevamo 06 49 17 50, 8 cifre da compilare per vedere se anche ad agosto ci siete a quest'ora dannata, in questo caldo dannato. Alcun tante missa la crown, rodo da bando de lu, che fai affre ai provinciau, giause co. Quindi dicevamo, dopo tanti giochetti, sperimentazioni, anni, siamo ritornati a voler fare una trasmissione per voi, con voi. Una scaletta così, di quelle abbastanza salterecce. quelle che uno butta là, una playlist la segue più o meno, e se poi ci viene da parlarci sopra, se ci ispira qualche pensiero, ve lo regaliamo. Magari non sarà il pensiero più giusto, più azzeccato, più adatto. Magari è una cazzata. Però ve lo sottoponiamo. 06 49 17 50 Onda Rossa, lasciamo Blue Dolphin dalle valli occitane. Dal disco Musica Endemica, da cui abbiamo ascoltato per intero l'Onagat e poi Provincia Coltestina e la Beata adesso, vabbè. Passiamo in terra di Sardegna, dove tra l'altro ci abbiamo i nostri inviati. Ma appunto non facciamo cose strane, gli ci abbiamo parlato poc'anzi, non li interrogheremo in diretta. Veniamo alla Siniscola di un bel po' di anni fa, usciva questo lavoro degli Ascra. Che si chiamava Hijos, andiamo ad ascoltare due tracce. La sesta che si chiama Nuclear Tango e poi l'intramontabile, è il gioco di parole, Tramontis. Ascra dalla Sardegna, Siniscola, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Si arsia forte da isa terra, suento de questo lamento, canche che ne interrare, alga storia nucleare, quanza con casorceraco, che han permesso su manezzo, de su mere continente. Chi ha cercato verità, oggi è sbranto a metà, chi è sempre su un malaffare, sarna del suo capitale, son soso clor de piscina, e questa fricca sfruttata, lo cui pane e civiltà te. Morte su Areione. forte dai sa terra. Suento de questo lamento, che anche credo interrare, anche in storia nucleare. Quanza con 14 anni, che ha permesso suo manito, e su mere continente, sa sardina non per finta. Hola, orgoglio so, sopra tu mano di pietà. .23:05 minuti primi, prima di sentire insieme Tramontis, facciamo come facevamo un tempo, cioè vi andiamo a leggere il testo, la traduzione in italiano, quello in lingua sarda ve lo risparmiamo, ma non perché non sia interessante in sé o perché magari i sardi e le sarde in ascolto non possano godere anche di queste parole in lingua, ma perché sicuramente lo storperemmo le pronunce, quindi è meglio che ci atteniamo all'italiano, che non è che proprio ci accichiamo in maniera correttissima, però coro sanno l'animare sa tristura in intro intende. Queste appunto sono parole che non tramontano mai. Umine chinde solo volontà te. Così via che scolande li pare chi. Di questo tradizionale tu tramonti sole, tramontis. Tu tramonti sole e guardi per tutti, ce la fai a salutare il luogo dove sta il mio cuore, il mio dolce amore? A cantare non c'è fatica, a meno che non si stia male. A cantare si porta allegria a quei giovani disperati. E io canto, canto, canto. E non so nemmeno perché. Io canto solo per consolare me. E io no, non penso nulla di voi, arrogante padrone. Suono e me ne fotto del vostro compenso e rifiuto il vostro pane. Tramontis. a inculla vuestre entrade, os rifiuti il vuestri pan, a inculla vuestre entrade, os rifiuti il vuestri pan, e io non ho messo nulla de su mere sotterà, in da frutto e limosina e non che io carità, in da frutto e limosina e non che io carità. Tu tramondi, tu soeli, tu ducari, balduska. Se tu bondi, salutami, la chiare mio chiarama. Se tu bondi, salutami, la chiare mio chiarama. Tu e chi canta, tu e sole, e tu appunti a sacco tua. Si pila che sa baitare, io vende su coro meu. Si pila che sa baitare, sono stato 4 mesi nell'inferno dello Stato. Mi avevano ingabbiato perché considerato soggetto avverso. E arrivano gli sbirri quando scendi stazione. Mi fanno controllare per la mia reputazione. Portatelo in centrale e fatela annusare. Col fiuto del mio cane lui non può scappare mai. Non lo farò mai. Lo sbirro non lo farò mai. Neanche il finanziere. E adesso se te vogliamo bere, sono stato 4 mesi nell'inferno dello Stato. Mi avevano ingabbiato perché considerato soggetto avverso. Qui arrivano gli sbirri quando scendo in stazione. Mi fanno controllare per la mia reputazione. Portatelo in centrale e fatela annusare. Col fiuto del mio cane lui non può scappare mai. Non lo farò mai. Lo sbirro non lo farò mai. Neanche finanziare. E adesso se ti vogliamo bere, minuti Radio Onda Rossa 25 o'clock. Maleducazione maleducazione alcolica dalla Tuscia Clan. Quindi Radio Onda Rossa Quindi vogliamo mettere al centro un po' dei nostri ragionamenti in questa playlist. Controllabile sul baratro del vero, stanchiati dal cercare voce d'autenticità. Trovi l'argomento che ci sembra centrale. Gente che non ha incontrato mai la al centro centrale. In quest'estate, così l'abbiamo detto, ripetuto. Sono macchini costruiti in balia completa di una falsa identità. Passano da marciapiede a un altro senza tregua. L'idea che il mondo possa essere, possa avere un centro. Un luogo privilegiato da cui poter osservare, decretare, sentenziare. Costruire una egemonia. Come si diceva un tempo, culturale. Sapore caldo della libertà. Ogni luogo è un centro. E abbiamo iniziato quindi con la copertina. Piango piano, stringo i denti, mi accompagna su pezzenti, suono forte. Lady Ludolphin con una donna, una signora, una ragazza. Lotto pure con me stesso. Con grande grinta che guida. Per stare al freddo. Che pilota, che guida, che conduce un trattore. E poi siamo passati a un'isola, quella che è stata, pur essendo al centro del Mediterraneo, comunque al centro di un grande mare e perciò importantissima nelle epoche passate e perciò preda nelle epoche passate di chiunque venendo dai continenti voleva dominare quel mare. Eppure è un'isola dove, secondo alcuni studi archeologici e le poche testimonianze scritte che ci sono dell'antichità della Sardegna, qualcuno ha tirato fuori la teoria che la mitica Atlantide possa essere proprio localizzata nell'isola o addirittura in un'isola nell'isola, l'isola che c'ha più nuraghe, più testimonianze di quell'epoca nuragica, di tutta, non di tutta la Sardegna, ma comunque una densità più alta di tutto il resto della Sardegna, che è l'isola di Sant'Antioco per l'esattezza. E poi siamo passati alla Tuscia, la provincia più spopolata del Lazio, quella con le densità di abitanti più bassa. In cui però c'è una scena musicale molto importante, soprattutto di gente che vuole bevere. Ci spostiamo invece adesso dall'altra parte di Roma, per un altro centro che è quello castellano, apriliano, velletrano, insomma. Senza età, che ha scordato la pistola. Godzilla, le quattro e le tre bambine con i baffi. Non sappiamo chi sia la quarta, che prende in giro un po' tutti quelli che dalla città vorrebbero andare a vivere. Con più tranquillità nelle campagne, ma rimane un sogno perché la vita è dura colà. Ed è per questo che amiamo quella vita lì, con la gente, che le persone che non hanno paura comunque ad avere i calli sulle mani, oppure se preferite sulle mano. In cui insomma i problemi in qualche maniera te li devi risolvere. E i pesi li devi spostare. Ecco, vedi, mi è venuta un'altra cosa da dire, la diremo più tardi. e quindi Agropunk, Godzilla e le tre bambine coi baffi. Perché Johnny lo sgambo è con noi. Déjalo, que ya se ha ido. Ah. 23:31 minuti primi, quindi vi abbiamo. Dicevamo prima, vi abbiamo deliziato con Banda Baciocchi e Flipao. Dal lavoro che si chiamava, e aiutatemi voi, Zarragoak Gaizatoak Goak, vabbè, qualcosa del genere. Questi qua invece fuori di testa sono Like the Bob, Ivan e David Erzecchetto. Questo lavoro che noi vi abbiamo così tormentato. Super Mats Big Faff sì, perché proprio di questo volevamo parlare, di chi interpreta chi, di chi parla di chi, di quanti soldi e quante parole vengono spese in questo mondo che è nostro, quello nostro, quello occidentale, quello qui italiano, quello romano, quello nostro, perché ci stiamo dentro a bagno. Un mondo logorroico dove tutti scrivono, tutti parlano, tutti dicono, tutti postano, tutti likeano, come dice un pochino anche, come recita un pochino anche il nostro spot di sottoscrizione. Un mondo fatto di verbosità, di complicazione, in cui servono milioni di persone a parlare e poi a fare. Invece sono al solito, appunto, coloro che non hanno parola, non hanno parola, non la vogliono avere, non ne hanno forse né voglia né capacità, ecco. Bene, mi capitava di leggere una rivista che riguarda di montagna, insomma. Nemmeno direi troppo mainstream, cioè è una rivista comunque che ha avuto dei momenti e degli scritti piuttosto interessanti. E soprattutto nel suo piccolo, diciamo, è scritta da chi fa. Ci sono gli a cui piace comunque fare le attività della montagna, per quanto queste siano realmente ludiche, realmente non costruttive. Vabbè, mi è capitato di leggere, adesso non citerò esattamente. Sei Brancano, il figlio di Anubi, e lo chiamo Panagiotti. Gli estremi precisi, se volete, posso fornirveli senza problemi. Comunque c'è un'agenzia dell'ONU, insomma, probabilmente dell'UNESCO, perché ha accreditato come patrimonio immateriale dell'umanità, come ad esempio le montagne, no? Che sono ad esempio le Dolomiti, che sono state insignite di questo riconoscimento, cioè come patrimonio dell'umanità, patrimonio naturale. Allora, l'oggetto di questo patrimonio immateriale della umanità sono il paesaggio dei muri a secco. Solo cane, viene da un'altra dimensione. A voi vi sarà capitato, andando appunto per le campagne, semplicemente, o ancor meglio nelle zone collinari, o ancor più in montagna, di trovare appunto un paesaggio che è costruito veramente da questi muri a secco che servono a sostenere, a creare dei piccoli ripiani dove piano non c'è. Ecco, quando ho letto questa cosa ho dovuto rileggerla 2 o 3 volte perché pensavo di aver così travisato, non aver capito esattamente di cosa stavano parlando. Anche perché qualche anno prima mi è capitato di parlarne con un personaggio abbastanza, diciamo così, nel suo piccolo famoso, uno che va in televisione, eccetera. E comunque uno di quelli che, sì, fa parole, però insomma ci va a lavorare, fa pure i fatti alle volte. Qualche callo sulle mani ce li ha, magari ha pure gli operai, ecco, ha pure chi lavora per lui, ma ancora ci sta a contatto col lavoro. Un economista, una persona, beh, non citeremo chi è, insomma, comunque un economista è stato anche consigliere di un ministro dell'ambiente. E mi faceva notare come in terra d'Abruzzo, proprio nei terreni che aveva ereditato, di sua proprietà, che aveva ereditato dalla famiglia, non stiamo parlando di un pezzente comunque, ma nemmeno di un miliardario, ci fosse appunto una quantità immane di pietre spostate, messe, fatte cumuli, per rendere in qualche maniera praticabili, soprattutto per le greggi in quel momento, in quei momenti storici dove c'erano appunto molte greggi e l'attività economica principale era la pastorizia, per rendere appunto praticabili, per fare pascoli di quelle montagne. È proprio quello che commentavamo molti anni prima di questa così corbelleria, che però appunto prevede fondi, soldi, riconoscimenti, cacce, corse a questi fondi, parchi, finanziamenti, eccetera. Dicevamo come appunto questo fosse un lavorio continuo di gente della campagna che prendeva questi sassi e li spostava, li metteva in ordine in qualche misura. Un lavoro, i sassi sono nulla di più materiale di un sasso, di una pietra, di un masso, cioè. E nulla di più materiale è la fatica, il sudore che si è consumato per fare questo lavoro. Ecco, mi chiedevo come cazzo fa a essere un patrimonio immateriale. Credo che proprio per questo motivo potremmo parlare di cortocircuito cognitivo. Abbandoniamo l'Occidente, abbandoniamo i nostri centri, evacuiamo, andiamocene via, perché qui si dicono solo stupidaggini, eh. sudato e il vento si è alzato senza la maglia dell'ana. E Cristo è morto di freddo. Era tutto sudato e il vento si è alzato senza la maglia dell'ana. E Cristo è morto di freddo. Caduto perché è inciampato, un incidente acustico all'aereo è caduto, era una caldaia in piazza Fontana, l'aereo di Mattei, una coincidenza strana. Nella scuola Diaz c'erano i terroristi e Calvi si è impiccato perché era molto triste, fece sotto le ruspe un tragico incidente, la CIA delle due torri non ne sapeva niente. Era tutto sudato, il vento si è alzato senza la maglia dell'ana. E Cristo è morto di freddo. Era tutto sudato e il vento si è alzato senza la maglia dell'ana. E Cristo è morto di freddo. È stato un avventato che ha messo una bomba sul traliccio ed è scoppiato, come Feltrinelli l'anarchico pazzo, e a Carlo Giuliani sei stato tu con il tuo sasso. Lui per primo ad attaccare la polizia, un pazzo col fucile ha ucciso John Fitzgerald Kennedy. Renato invece è morto in una rissa tra palordi. Era tutto sudato e il vento si è alzato senza la maglia dell'ana. E Cristo è morto di freddo. Era tutto sudato, si è alzato senza la maglia dell'ana. E Cristo è morto di reggae. Thank you. sudato, il vento si è alzato, senza la maglia di lana, e Cristo è morto del freddo. Oh, aspetta, aspetta, 23, 46 minuti primi, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, ve lo ricordiamo ancora, Lo so che è mercoledì, che è mezzo la settimana, e che chi va a lavorare di agosto non è che ha tanto piacere a farlo. Lo sappiamo che chi invece se ne sta, fortunatamente, ferie, in vacanza, in qualche maniera è sfuggito dalla quotidianità. Però noi siamo qui a trasmettere Radio Onda Rossa. Dopo 45 anni, non noi personalmente, però un 35 ce li metteremo. Vabbè, comunque, una cosa non è cambiata di Radio Onda Rossa, oltre al nome e oltre a una coerenza, comunque, nello spirito. Ed è lo 06491750, cioè avete il ditino per fare il numero e per far illuminare di rosso la redazione della radio più rossa che c'è, quindi da capo, anche senza incipit preciso. I wanna be a rebel. Voglio essere un ribelle. Dicono Dropkick Murphys, da capo a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Smash shit up. People, money, and causes. con orgoglio, atti vandalici, diffida. Ottimo street punk da queste frequenze non può e non deve mancare. 87,9 della modulazione di frequenza Radio Onda Rossa. 06 491 750. Dire pane pane, vino al vino. E così vi dico che durante le lunghe trasmissioni passate qua in radio arriva il momento in cui il ritmo, tracce, cosa da dire, organizzare, mettere dischi non è certo come andare a spaccare i sassi o lavorare in fabbrica. A proposito dei sassi, pietre e massi, o di stare davanti a un PC, uno schermo che riproduce comunque sempre il modello di produzione fordista seriale iper specializzato, molto meglio mettere dischi e dire scempiaggini dal microfono. Però arriva il momento anche in questi casi di dover prendere una piccola pausa. E così, molto paraculamente, si sceglie una traccia un po' più lunga e si fa un pochino gli affaracci nostri in quel periodo. Quindi, senza andare troppo di là dalla scaletta delle proposte di questa serata, ritorniamo in quel del territorio dell'impero del male, cioè gli Stati Uniti d'America, almeno per noi. Non tanto per i pischelli, i voracci, i kids, gli operai, i neri, le donne, i migranti, gli ispanici, tutta la gente che fa andare avanti quel paese. ma proprio per il modello produttivo riproduttivo culturale di scempiaggini verbose, di produzione di egemonia supposta, che viene da Agola e da lì, dalla California proprio, non come i Traffic Murphys che vengono da Boston, ma dall'altro lato, appunto, dalla California, dall'Oceano Pacifico. Altra piccola enclave di origini celti irlandesi, Flogging Mullis. If I Ever Live This World Alive, dal vivo Flogging Molly, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Otto minuti. This is going out for Cahill and Dennis Mack and wherever that bastard is, and PJ Smith and everybody else who has been mentioned on a live album. This is going out for all you Irish people. Even Davey Watson. sensation. But my heart can beat still. Oh, Mulder and Jesus, I feel pretty ill. I want to go home where my faith won't feel safe. The engine passed that sea. because we leave my home in the pines where the sun never shines. Non c'è bisogno di dirlo che questo disco, questo lavoro qua di Billy Bragg e Joe Henry, uscito, se non andiamo errati, nel 2018, è troppo scritto, è scritto troppo piccolo e non riusciamo a leggere. No, 2016. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled. Il menestrello del punk britannico degli anni 70. Billy Bragg e poi delle canzoni di lotta, della resistenza, dei minatori alle privatizzazioni di Maggie. Che come diceva Julian Cope giustamente, ma proprio ma le lacrime sono di gioia, ecco. It's just knowing that the world will not be cursed. E ha fatto uscire il giorno, il disco, il giorno dei suoi funerali, eh. Quello che un tempo era quello che avremmo chiamato un sano odio di classe. E Joe Henry invece un bluesman degli Stati Uniti, insieme a girare, l'abbiamo detto tante volte, a girare le stazioni da Chicago fino alla California e mettere, improvvisare lì dei set acustici. Poi magari non saranno così, saranno così improvvisati, dal momento che la qualità del disco è veramente eccelsa e l'acustica delle hall, delle stazioni si è rivelata ideale. Ma perché ripercorrono appunto poi attraverso questi canti tradizionali, alle volte abbastanza popolari, alle volte anche di successo. Un modo di pensare e di vedere le cose dal basso. E da qui facciamo, quindi, da Billy Bragg e Joe Henry. E dalla loro In the Pines andiamo, facciamo, voltiamo pagina. È il modo più indicato di dire il salto piuttosto ardito che facciamo. Ce ne andiamo di nuovo nella terra nei nuraghi. A Fora del Rastu, quindi da Cagliari invece vengono loro. E ci andiamo ad ascoltare, facendo appunto un salto piuttosto ardito, questa roba qua. De Monti a Fora del Rastu da capo. Se vi dovesse capitare girando per le terre di Sardegna di imbattervi in un personaggio con il cappellone in testa, pantaloni e camicia lunga e girare appunto per vecchie, per antichi vecchi reperti archeologici, con lo zaino rigorosamente a piedi, almeno per quanto è possibile, nei dintorni delle tappe che si è scelto. Non vi preoccupate, non dategli troppo aiuto, scambiateci qualche parola perché è il nostro inviato. Dall'antica terra dei nuraghi, poi ce ne parlerà, probabilmente se ne avrà voglia. Interpretando il proprio tempo libero con un turismo fatto al contrario, un antiturismo. Ora sappiamo che è andata a sbattere nel così definito santuario dei sognatori, e cioè forse nel luogo più meraviglioso della Barbagia. Meraviglioso nel senso che desta meraviglia. E dove il vento spazza le rocce e i radi cespugli della macchia in maniera indelebile delle grandi montagne in una piccola isola. Grandi, basse montagne in una piccola isola, ma grandi montagne. E questa è la terra del Supramonte. E ancora facciamo un altro balzo. Veniamo qui nei dintorni, li abbiamo presentati qua in radio un mesetto fa. .612, questa è Ostia Lido Hardcore, Radio Onda Rossa, 25 o'clock.

de bottega. È stata curta un cazzo che te frega. Sono stato a lavorare tutta l'estate e m'è rimasta solo fame e sete. Mi moglie bianca che pare di cera e niente c'ha da goce quando è sera. Sembramo due fantasmi in controluce, e baccaglia non c'è rimasta voce e sta chitarra c'ha una corda sola e a mezzanotte il cuore ci ristora. Ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento, sta Roma derlitta a Pia d'Aceto, una mano c'ha davanti e l'altra dietro. Se lo tiene stretto e c'ha il fucile carico nel letto, se arsa ogni mezz'ora a controllare non fosse che qualcuno stia a magnà. Chi non c'ha niente campa la giornata, se venne i panni e magna l'insalata, gli conti l'ossa quando c'è star sole, la fame con la fiacca lo rincorre. Ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento, sta voce si è scallata alla buon'ora, la Roma dei voraci dorme ancora. Niente, me magnerei una cinta de serpente, tanto sognà non è che costa caro, me magnerei la sella del somaro. C'ho tanta fame che non più ho più sonno, de giorno per la fame più e m'addormo. Dovremmo scocci da un altro sistema, per un anno a dormire senza la cena. Ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro e il Parlamento, sta Roma derelitta a Pia d'Aceto, una mano c'ha davanti e l'altra dietro. Piano piano, un giorno l'anno scorso a passeggiare, quando sento da lontano il suono di un sassofono arrivare ed ascolto un ritornello, non so se quanto tempo ti potrò, se era brutto, se era bello, proprio a coscienza di quello non so. Da quel giorno la mia vita fu distrutta, fu pensata, quella musica dannata non la posso ascoltare più, se mi passa nella mente non mi posso più frenare, sono costretto di gridare, di cantare, di danzare. Ah, quel ritornello strano dal ritmo americano, che ossessione, è una cosa madornale, parrebbe un infernale, dannazione, ma mi si è fissa nella testa, la mia disgrazia è questa, canto io, salto, scatto il giorno sano, quel ritmo americano, che ossessione. Per sfuggire quell'imposta che i cieli mi ora devono pagare, per parare la batosta, tre mesi al erano decisi di sposar nella chiesa parrocchiale mentre si celebrava le funzioni. Un eccesso di quel mare fu della festa vera di funzione. È successo uno scompiglio, la mia suocera è svenuta e la gente intervenuta disgustata se ne andò, mentre con un beduino e filettico saltavo e cantavo, sbraitavo la mia stupida canzone. Ah, quel ritornello strano dal ritmo americano, che ossessione. È una cosa madornale, parrebbe un infernale dannazione. Mi si è fisso nella testa, la mia disgrazia è questa, canto io. Salto, scappa il giorno sano, quel ritmo americano, che ossessione. Torna il ritornello, chissà se col cordofono lo può, se è più brutto o meno bello, se fa lo special con un saxofone. E lo sento dalla strada, fa la voce un po' stonata, so che ti farà la vita tanto dura da caffà. Sembra come la frittata che è girata e rivoltata, se è sbappata e rovinata, chi la vuole più mangiare? Suona forte e sbatte male, io già sento il vomitare, sembra come star su mare, chi lo vuole più per qua. Ah, un ritornello strano dal primo americano, che ossessione. Parrebbe un infernale dannazione. Mi si è fisso nella testa, la mia disgrazia è questa, canto io. Salto, scappa il giorno sano, per il tuo americano, cosa c'è? Trentaquattro minuti dopo la mezzanotte, questa è Radio Onda Rossa, 25 o'clock. 0649 1750. Ma ci siamo accorti, ai noi, che la luce rossa non si accende. Amore, amore mio. E quindi quando avete chiamato non ce ne siamo accorti. Accanto a te sparisce ogni dolore. Cablati e incuffiati come siamo. Fammi restare con te, sì. Vabbè, ci verrebbe da dire questi suoni di Onda Rossa. Fammi restare con te. Quindi dopo Muzunga Trash Orchestra, Scintilla, dopo è andato Razza a Parte e Notte. Non piagne, amore mio, non piagne, amore. Non piagne. Poi il canto degli affamati, ovviamente. La voce di Daniele Coccia e i Muro del Canto. Quello che mai da dire un amore. E questo invece da Chimera. Quello hardcore. Mai da dire un amore. Quel ritmo americano. E siccome Radio Onda Rossa rimane una radio militante, di lotta, di battaglia, una radio schierata, magari forse dalla parte sbagliata della barricata, un paio di tracce di una di quelle band che ci sembravano, ci sembrava dicessero. Te penso, amore mio, te penso. Per continuare il ragionamento di prima, tu sei partito ormai. Le cose come stanno, non usando magari il. Ma tu non sai che sento nel seno mio. La schietta dichiarazione, enunciazione dello street core dell'OI, lo slogan forte, ma usando un po' di arguzia, un po' di gioco di parole. Pax Armata. Questa è Déjà Vu dal loro lavoro Pax Armata, quello con i 500 euro in copertina. 87.9 Onda Rossa, Pax Armata, Déjà Vu. Déjà Vu.

vai dentro più è complicato. Più ci vai dentro più ci trovi in infinito. Perché nessuna astronave ti può portare così vicino all'infinito da poterlo toccare. È così vicino agli occhi che non lo puoi vedere. È in quella musica, è in quell'odore. È il gusto folle di volerlo cercare. Simi ai migranti esistenziali spaesati in continua migrazione verso il non si sa. Per non impazzire inventiamo un'identità. Ma quando il familiare è più complesso sei così sicuro di conoscere te stesso. Chi ero ora sono, chi sono sarò stato. Il tuo presente è solo un futuro passato. Da Monaco lontano protene la linea di questa mia mano. Quello che sono è il risultato di ciò che sarò e di chi sono stato. Lontano, da molto lontano proviene la linea di questa mia mano. Quello che sono è il risultato di ciò che sarò e di chi sono stato. Lontano, da molto lontano proviene la linea di questa mano. Quello che sono è il risultato di ciò che sarò. Il caldo è tanto e quindi anche il lettore di destra sta tirando le cuoia, diciamo, e non ce la fa proprio ad andare avanti. Quindi proviamo a cambiare traccia, vediamo che cosa succede. Questa era la splendida Spice Up, purtroppo rovinata dal lettore che fa le bizze, però insomma è il 3 agosto anche per lui. Attenzione, perché in questi momenti di vuoto sono proprio quelli in cui il potere si approfitta. Ricordiamo il 2 agosto di cui abbiamo parlato già ieri, il 2 agosto del 1980, e la caldaia inizialmente della stazione di Bologna che era esplosa e poi non era affatto una caldaia ma era tutt'altro, era la strage di Stato come è stata definita. Mentre Spaisa esala le ultime note, noi invece andiamo a riproporre qualcosa che durante la stagione abbiamo avuto il piacere di trasmettere più volte, avere anche loro in studio, Progetto La Morte. È proprio di qualche giorno fa questa edizione. Immortalo la realtà come fossi un paparazzo, mettiti bene in po'. Tratta da un testo di Ascanio Celestini chiamato Parlamento, che già dal titolo insomma un po' vota e rivota quando cazzo è che ne impari. La politica è un mezzo per curare i propri affari. Rivela quello che sia una scheda bianca, che è il tu fai per qualche senso. Col denaro ti schiavizzano in combutta con lo Stato. Quindi la morte, la libertà dei poveri, lasciando in pace il lettore di CD che ci sembra piuttosto stanco. E noi gli andiamo appresso perché zagaiamo pure noi. Dai, passiamo alla morte. Invece non va la morte, chissà perché. Adesso ci riproveremo a rimandarlo. Nel frattempo invece un'altra. No, forse lo sappiamo il perché. Un'altra vecchia conoscenza di queste parti, anche questa, una ci è arrivata di abbastanza di recente. Altro progetto piuttosto misterioso, c'è da dire, Velester. Personaggio che viene fuori da un che è un trasfugo più che altro, che viene fuori da un viaggio nel tempo, direi proprio di no. Il viaggio c'è, ma è a suo discapito, a sua insaputa. Più che altro disperso nel tempo, nei tempi. E questo è Antiquarium. Esattamente composta il 22 giugno del 22, quindi pochi giorni fa, una manciata di settimane fa, da capo, mentre prepariamo la morte. Antiquarium, un notturno horror all'italiana per quanto riguarda Velester ed ora la morte. I poveri erano così tanto poveri che presero la loro fame, la misero in bottiglie e se la andarono a vendere. Se la comprarono i ricchi che nella vita avevano mangiato di tutto, dal caviale ripieno all'osso buco di culo di cane allo spiedo. Però la fame dei poveri in bocca non l'avevano assaggiata mai, così la comprarono. La pagarono bene e i poveri furono contenti e per un po' tirarono avanti. Poi però tornarono poveri, così presero la loro sete, la misero in bottiglia e se la andarono a vendere. Se la comprarono i ricchi che nella vita avevano bevuto di tutto, dal Brunello al Tavernello, ma la sete dei poveri in bocca non gli era passata mai. I poveri ne furono felici e per un po' tirarono avanti, ma poi tornarono ad essere poveri, più poveri di prima. Così presero la loro rabbia, che di rabbia ce ne avevano assai, la misero in bottiglia e se la andarono a vendere. Se la comprarono i ricchi, che pure loro nella vita erano stati arrabbiati, altro che, ma erano piccole cose, conflitti generazionali, roba da ormoni, rodimenti di culo, insomma, ma quella rabbia non l'avevano provata mai. Così allora se la comprarono e la pagarono anche bene. I poveri furono felici e per un po' tirarono avanti, ma poi tornarono ad essere poveri. Allora si vendettero tutto: la coscienza di classe, la violenza, l'insubordinazione, la cultura, la musica, le parole, la letteratura, la memoria. I ricchi accumulavano. Nelle loro cantine ormai avevano centinaia, migliaia, milioni di bottiglie e accanto ai baroli muffiti, muffati, passiti, moscati ci stava tutta la cultura dei poveri. La rabbia dei sanculotti fino ai braccianti di Vittorio nel Foggiano, i pumarò nel Lago Pontino, i braccianti rumeni, quelli che vanno a lavorare e a morire nei cantieri per 10 euro al giorno. In mezzo alle altre bottiglie nelle cantine dei ricchi c'era l'orgoglio dei poveri, l'orgoglio dell'aristocrazia operaia che aveva fermato i tedeschi nel 42, nel 43, nel 44 e nel 45, che aveva conquistato lo statuto dei lavoratori nel 1970, il superamento del cottimo fino all'orgoglio dei lavoratori precari, che erano precari, però pure loro l'orgoglio ce l'avevano. In quelle bottiglie c'era di tutto. C'era lo stupore, la meraviglia degli zapatisti che entrarono a piedi a Città del Messico. In quelle bottiglie c'era tutta la cultura dei poveri e alla fine diventarono così tanto poveri che presero la loro povertà, la misero in bottiglia e se la vendettero. La comprarono i ricchi che nella vita tutto erano stati fuorché poveri. E adesso volevano essere così tanto ricchi da possedere pure la miseria dei miseri. Allora quando i poveri diventarono così tanto poveri da non possedere più nemmeno la loro povertà, si armarono, e non di coltello e forchetta, bensì di fucile e pistola, perché la rivoluzione non è un pranzo di gala, la rivoluzione è un atto di violenza. Armati andarono fino al palazzo e lì c'era il podestà affacciato al balcone, alla finestra, il podestà serio che li guardava. I poveri erano armati, ma rimasero fermi, immobili, non fecero niente, perché senza la rabbia, senza la fame, senza la sete, senza l'orgoglio, senza la coscienza di classe non si fa la rivoluzione. Allora il podestà scese in cantina e tra le tante bottiglie che aveva comprato dei poveri ne prese una soltanto, era la libertà, quella loro, che si era comprato tanto tempo prima. La prese e la riconsegnò. I poveri stapparono la bottiglia e adesso con quella libertà potevano farci un partito, per dire, potevano farci un circolo, una bandiera, un inno, una canzonetta. Però ci fecero poco e niente, perché la libertà da sola non serve a nulla. Così il podestà si cercò nelle tasche e trovò un pacchetto di caramelle alla lotta. Lo prese e regalò quelle caramelle ai poveri, che da quel giorno tornarono ad essere liberi, liberi di succhiare mentire. È l'una. I CDJ sono stanchi. I PC fanno le bizze. Tra via Domenico Zanelli e via Domenico Carbone Crio. Anche noi non è che giochiamo. Il parco giochi che sembra una piazza. 15 macchine perfettamente sistemate alla stessa distanza una dall'altra. Lo fanno sembrare un parcheggio a cielo aperto. Uno spazio adibito proprio a quell'uso. Quindi con la morte, non nel cuore, In realtà al centro dello slacco una grata 5x5 nascosta fra le tracce che vanno, locali comprati anni prima dal cinema imperiale che ora è un supermercato Dodis. Questo è Chernobyl. Sia il cinema che il supermercato però non hanno mai guadagnato uno spazio consono nel cuore dei cittadini del quartiere, che sono esistiti per inerzia fino alla loro prematura chiusura. La fila dei

quindi ancora un promemoria per quanto riguarda la stagione radiofonica che va concludendosi con questo 3 di agosto. Swarovski, Kolivanov, Audomar Kalashnikov, Pavel e appunto questa produzione Swarovski che abbiamo presentato da queste parti e che ci piace far ritornare. Quindi come di consueto 25 o'clock finisce, termina. La programmazione di Radio Onda Rossa per questo mercoledì barra giovedì notte per esaurimento delle energie. Questa vecchia produzione Uncle. ...1998, ma suoni per quell'età, per quel periodo. Di avanguardia, anticipatori. Vi anticipiamo il palinsesto del giovedì, dal momento che vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata, delle sue repliche, delle sue selezioni strampalate, ma si riprende in diretta domani mattina alle 8. Vi leggiamo quello che ufficialmente è il palinsesto, poi tenete conto che il 4 di agosto, dicevamo, alle 8 con le prime pagine dei giornali, la segna stampa cittadina, redazionali della città, tutta scena del cinema dalle 14 alle 15, Attica Blues dalle 16, ma credo sia terminata proprio la scorsa puntata. Attica Blues oltre la Black Music, la Schiena del Soul, probabilmente una replica. Poi si conclude con Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Onda Rossa alle 22, Apostasia e Cuginetti, che qualora volessero terminare anche loro in questo agosto torrido, salutiamo. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro costretti a condizioni di libertà, di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, decreti amministrativi che sanzionano le persone che sono sottoposte a dover risiedere, lavorare, rimanere relegati in un luogo, insomma, comunque limitare la libertà. La libertà di succhiare mentine, diceva Ascanio Celestini con la voce di Ciccio della Morte. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, under a communist moon, dai. Yeah.